ma non chiedermi di stare lontano da te. Convinciti e credimi, mi appartieni per te, nessuno ti amerà più di te. Nessuno ti...